oggi, perché non posso senza colpa mirarti. Il re mio sposo qui s'aggira d'intorno, e dovrò dunque morir cruda costanza, senza il dolce piacere d'un dei tuoi sguardi. Non tormentarmi più, dimmi spergiura, ti scordasti di me? Ceste mai la prielo quasi, tutt'quell'amare ci possino, ma soffri e dolci.